oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. minuti, oggi la inizio io la diretta per ringraziare il professor Francesco Campione che mi ha omaggiato del suo lavoro che si chiama Non Lavoro, un libro che trasforma la disoccupazione in opportunità. Ci tenevo a iniziare in questo modo proprio perché è un regalo molto molto gradito. Si può iniziare la diretta, buongiorno. Buongiorno, diciamo anche che domani Francesco Campione lo presenta insieme ad Amelia Frascaroli, l'assessore ai servizi sociali, in Sala Tassinari alle 18. Sala Tassinari è quella piano terra nel primo cortile del palazzo comunale, Palazzo da Curzio, e quindi Francesco verremo tutti ad ascoltarti perché approfondirai un po' di più rispetto a quello che ci hai accennato in trasmissione, immagino, nella presentazione. Certo, certo, ci saranno scoop. Immagino. O comunque Willy, bentornato. Hai iniziato la trasmissione tu per far capire che eri tornato. Anche, anche, sono tornato, eccomi qua. Di nuovo buongiorno, a voi la linea. Quindi cambia la musica oggi. Ah, non lo so. Settimana scorsa tutto progressive, eh? Ottima scelta. Ah no? Ottima scelta, non hai certo fatto rimpiangere. Anzi, hai diversificato. Brava. Mi sono fatta aiutare da Andrea nella scelta, devo dire. Vedi che saltano fuori gli altri. Beh, certo. Chi meglio di lui può dare delle dritte sul progressive e non solo. Ma andiamo, anzi, torniamo alla trasmissione scorsa, perché io vorrei partire da lì per poi andare oltre. Crisi, oltre la crisi. Certo. Vorrei ritornare ai tre punti virtuosi che dovrebbero succedere contemporaneamente perché la società riesca, la società e le persone che la popolano, riesca a andare oltre la crisi proprio usando, perché parlavamo del tuo libro ovviamente, di quello che hai scritto nel tuo libro, per arrivare a superare e a utilizzare la disoccupazione come momento invece di superamento della crisi o di rivoluzione, ma in positivo, in senso costruttivo. E vorrei che li ripetessimo questi tre momenti virtuosi, diciamo, no, che si devono incrociare. Si evocava un'alleanza possibile. Un'alleanza possibile. Un'alleanza possibile e un provvedimento sociale. Oltre all'alleanza ci vorrebbe, perché l'alleanza renderebbe possibile poi il provvedimento sociale e l'uso di questo provvedimento in funzione di un superamento della disoccupazione che non sia la mera sostituzione di un lavoro di merda con un altro lavoro di merda. Sì, esatto. Allora il problema, la tesi del libro, la riassumiamo brevemente, è la seguente. Quando il lavoro serve per sopravvivere, bisognerebbe subito averne, dopo averne perso uno, l'indomani trovarne un altro, altrimenti sono cazzi, disagi terribili, sono tragedie, d'accordo? Nella grande maggioranza dei casi però, per esempio, i giovani non è questo il problema cioè della sopravvivenza, il problema purtroppo è un altro, il problema invece della posizione nella società, del ruolo del lavoro, del ruolo del lavoro nella vita personale, di tutto ciò che il lavoro nel suo significato universale ha nella vita dell'uomo. Sì, anche perché è sempre stato considerato il lavoro come, soprattutto per i giovani appena, diciamo, usciti dalla scuola, che sia l'università, che siano le scuole superiori professionali, eccetera, il momento in cui termina definitivamente quello status intermedio e ti porta nell'età adulta, diciamo, e ti dà un posto nella società, certo, mettiamola così, certo, tra mille virgolette. Certo. Il coronamento del processo di acquisizione adolescenziale dell'identità è il lavoro, è il ruolo, un ruolo nella società. Chi ha un ruolo nella società se non ha un lavoro? Nessuno ha un ruolo nella società se non ha un lavoro. Il lavoro, in qualche modo, conferisce a chiunque il ruolo nella società, che è il completamento, nella suo aspetto sociale, della costruzione dell'identità personale. Ora, il problema è che ci siamo ridotti, e soprattutto in un'epoca di non piena occupazione o di disoccupazione dilagante, ci siamo ridotti nella seguente situazione, che il lavoro non si trova. o se si trova, bisogna accontentarsi di qualunque lavoro. Il che... No, ce n'è una terza. E qual è la terza? Che se si trova o bisogna accontentarsi di qualsiasi lavoro, è che questo lavoro deve riempire la tua vita dalla mattina alla sera alla notte, ti ci devi dedicare in maniera spassionata, esatto, e unica, quasi come fosse un amore in un qualche modo. Certo, certo, ti viene richiesto, poi hai ragione. Quello poi è il modo contemporaneo, al giorno d'oggi, in cui che è la richiesta dominante rispetto a chi lavora, che in qualche modo deve essere dedito totalmente al lavoro, non deve mai smettere di lavorare, come se il lavoro potesse identificarsi con la vita. In realtà spesso il lavoro uccide la vita, spesso il lavoro come dire, limita, aliena la vita. Allora il problema rispetto all'occupazione è duplice. Da una parte c'è il problema di averlo un lavoro e di recuperarlo, o di avere il primo lavoro se si è inoccupati e non disoccupati, e dall'altra c'è però il problema di evitare di passare, come accade a certe persone, da una condizione sfigata, quella del disoccupato o dell'inoccupato, a una ancora più sfigata, quella cioè di chi fa un lavoro alienante, degradante, terribile, stupido, ripetitivo, disumanizzante, eccetera eccetera. Cioè il nostro problema è anche questo. Da questo punto di vista, quello che appunto risulta evidente, che abbiamo imparato, che noi psicologi abbiamo imparato nel cercare di aiutare le persone col servizio Primo Maggio gratuitamente in questo percorso di lutto, che è il percorso della perdita del lavoro, quello che abbiamo imparato è che ci vogliono, per riuscire a far sì che il lavoro non sia la sostituzione di un lavoro alienante con alla disoccupazione, cioè peggio della disoccupazione, ma che è necessario che il lavoro sia, noi l'abbiamo definito così, un lavoro non purché sia, ma che sia un lavoro che migliori la vita di tutti. E appunto eravamo arrivati... Un lavoro che migliori la vita di tutti. Come si può fare, per quali fattori dovrebbero, come dire, combinarsi insieme perché per ottenere questo risultato? Il primo punto... E questa era la famosa Santa Alleanza, esatto, che evocavamo poco allora, fa. Allora, il punto è questo. Per ottenere questo, cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe rivoluzionare il senso del lavoro. Cioè, in definitiva, le persone... No? Le persone... Stavo cercando i messaggini sul telefono del prof. Ma basta chiederlo, guarda, tra un po' li avrai. Scusate, e non si accendeva, il bello è quello, perché giustamente il prof ha spento il telefono. Lo spento. Scusami. Niente. Allora il problema è appunto finché chi lavora non mangia o chi lavora non fa l'amore, cioè finché... come dire, il lavoro, mangiare o fare l'amore, cioè sopravvivere e godere, sono legati al lavoro, cioè non sono un diritto inalienabile di chiunque, anche di chi non può lavorare, anche di chi non lavora, noi, come dire, saremo esposti al gioco perverso dell'uso della disoccupazione come strumento per opprimere le persone. Per sconfiggere questo bisognerebbe appunto che ciascuno avesse il diritto di lavorare, di fare cioè di vivere, poi in definitiva, a prescindere dal fatto che lavori. Cioè prima si ha il diritto di vivere e poi si ha il dovere di lavorare. Non si ha il diritto di vivere perché si lavora. Il che vuol dire, in termini semplicissimi, che bisognerebbe, e noi abbiamo le condizioni nelle società, tra virgolette, opulente, invece di tornare a produrre povertà, noi potremmo utilizzare per tutti le possibilità che la società opulente ci dà e fare quella manovra che in tanti dicono che bisognerebbe fare, e cioè garantire un reddito minimo di sopravvivenza e di festa per tutti, per tutti. Per poter, ora questo è l'obiettivo, dopodiché nel momento in cui tu sei disoccupato cerchi il lavoro per delle ragioni profonde, non cerchi il lavoro solo perché devi sopravvivere, il che vuol dire che cercherai il tuo lavoro, il che vuol dire che sarà possibile che il lavoro migliori la vita di tutti, perché lavorerai per delle ragioni profonde e non solo per te. Questo è il punto fondamentale. Per poter riuscire ad avere quel reddito minimo che non sia legato al fatto di lavorare, per cui uno mangia lo stesso e fa l'amore lo stesso anche se non lavora, in realtà, per poter avere questo, che cosa si può fare nella vita di oggi prima che avvenga la rivoluzione? Perché se aspettiamo la rivoluzione ci possono volere alcuni secoli. Io penso che prima che avvenga la rivoluzione ci vorrebbe un'alleanza fra chi? Fra chi produce ricchezza, un po' di filantropi che abbiano, come dire, che pensino come Bill Gates che avere i soldi non serve a niente se non si fa del bene. Cioè che pensino di avere il dovere sociale, dato che si sono arricchiti, di aiutare gli altri a soddisfare almeno i loro bisogni fondamentali. Questo è il primo attore. Il secondo attore è un attore etico, morale. La capacità che è prettamente umana, ma rispetto alla quale l'uomo, come dire, è in uno stato di involuzione, la capacità prettamente umana di dare gratuitamente agli altri. Cioè la solidarietà, che io ho chiamato santità, per dire, per metterci tutto dentro. Cioè la capacità di dare disinteressatamente. Il terzo fattore è il fatto che bisogna aiutare le persone ad attraversare il periodo distruttivo, buio, tra la disoccupazione e il trovare un altro lavoro, per cui noi potremmo avere chi ci dà i soldi per il reddito minimo, chi ci dona i frutti del suo lavoro gratuitamente, gli altri cioè che ci aiutano, e però passa un po' di tempo e nel frattempo ci distruggiamo, nessuno ci aiuta in quello, che è quello che facciamo noi col servizio Primo Maggio. Quindi il terzo attore è il lavoro di cura. Quindi tre fattori fondamentali: l'alleanza fra chi pensa che il denaro acquisti senso a seconda del bene che si fa agli altri, tra chi è capace di donare gratuitamente, disinteressatamente, e chi fa un lavoro di cura. Senza questa alleanza non è possibile, neanche il reddito minimo non sarebbe possibile, ma non sarebbe neanche efficace. Bene, andiamo in musica, ricordiamo i nostri contatti perché io poi voglio andare oltre, le sollecitazioni sono molte, 333 180 94 94 per i vostri messaggi, sms o whatsapp. Se volete intervenire in diretta 051 34 64 58, Francesca Sortino, il brano Lupin, a fra poco. Oh, right. The music swings right. Your eyes are slapping around, waiting sun until the break of dawn. Questo termine che non è appropriato, però rende l'idea perfettamente delle sonorità, almeno per le grandi masse, per quelli che sono abituati a definire la lounge. È più new jazz, è più vicino a qualcosa di più raffinato. Quello che si intende per lounge è il classico Buddha Bar, no? Quelle cose molto dozzinali. No, io non intendevo quello, infatti, però sai che io non sono mai appropriata però per definizione. Infatti ti ho apprezzato per questa realtà. Diciamo che questo è un down tempo che si addice un pochettino a qualcosa di diverso, alle sonorità un po' più banali, appunto, dei Buddha Bar. Diciamo che qua ci manca un drink fresco con ghiaccio, magari un alcolico. Quello sarebbe perfetto anche per me che amo il caldo. Guarda un po' cosa ti dico. Allora, eravamo rimasti all'alleanza virtuosa, però adesso ti faccio la domanda becera. Perché io dovrei, tu parlavi di lavoro di cura gratuito, insomma di offrire il proprio lavoro di cura e di una sorta di post-mecenatismo che richiama il mecenatismo ma in chiave riattualizzata, chiamiamolo così. Perché io, mecenate, dovrei dare i miei soldi a te, o io, non mecenate, dovrei dare il mio lavoro di cura a te gratuitamente? Perché noi società dovremmo organizzare dei servizi, esatto, gratuiti, che naturalmente, esatto, sono a pagamento, perché bisogna pagare. Perché quelli. Tu non lavori e io invece magari mi devo fare il mazzo, scusa il termine. Per o guadagnarmi i miei soldi, oppure se sono il mecenate di turno, oppure per poter donare gratuitamente il lavoro di cura a te. Certo, perché non dimentichiamoci che uscire dalla trappola per cui superare la disoccupazione o l'occupazione vuol dire trovare qualunque lavoro, significa aiutare le persone a gestire quel tempo, compresa la distruttività che ci può essere dentro col lavoro di cura, a gestire il tempo che ci vuole per trovare un lavoro umano, cioè per trasformare la disoccupazione. Nella copertina del mio libro hanno scritto trasformare la disoccupazione in un'opportunità. Io non volevo che si scrivesse così, volevo che si scrivesse trasformare la disoccupazione in un lavoro umano. In un'opportunità forse, come dire, è più semplicistico, ma in un lavoro umano cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno è disoccupato e si pone il problema di dire speriamo di non trovare un lavoro peggio di quello di prima, cioè più alienante, che significa? Significa che bisogna aiutarlo a trovare un lavoro umano, cioè un lavoro che non sia un lavoro solo per sé, ma sia un lavoro anche per altri. Per cui poi io ti pago, ti aiuto, ti aspetto, e finché tu non trovi il lavoro umano, perché non aspetto solo per te, non lo faccio solo perché così tu realizzi i tuoi desideri, ma anche perché se tu effettivamente trovi un lavoro umano, la somma dei lavori umani fa la vita umana per tutti. Facciamo un esempio, se uno è un poeta, no? E mentre è impegnato a scrivere la Divina Commedia gli trovano un lavoro da facchino, no? Quello trova il lavoro, ma era meglio che rimanesse disoccupato, perché quando produce la Divina Commedia, quella è una cosa favolosa per tutti. Conveniva. Eh sì, conveniva. Conveniva. Però per mettere questa alleanza virtuosa, mi viene anche da pensare che ci vuole un buon livello di comunicazione tra tutti i soggetti sociali che si confrontano su questo terreno, e diciamo che dovrebbe essere forse l'elemento fondante, perché se non ci si parla, o se non, se ci si parla ma non si comunica, mettiamola così, perché parlare si parla tanto, diventa complicato capirsi. E allora la mia domanda becera di prima sorge spontanea, te l'ho fatta volutamente per introdurre quello che sarà appunto il tema di oggi, ovvero l'interruzione di comunicazione che a mio avviso stiamo vivendo oggi su tutti i fronti, da quella istituzionale a quella interpersonale. Brava, questo secondo me tu adesso hai toccato un tema cruciale, no? Adesso io farò una citazione, perché come professore ogni tanto faccio una citazione. Ci tocca, va. Ci tocca, vi tocca. Allora, Hannah Arendt nel suo libro Vita Attiva, no, distingue i lavori, le attività dell'uomo in tre categorie. La prassi, l'attività per guadagnarsi da vivere, che equivale a quello che lei chiama l'homo laborans, l'uomo che lavora, d'accordo? Poi ci sono le opere, cioè la trasformazione della natura in un mondo a disposizione dell'uomo, in un mondo umano, per cui per esempio un conto è la foresta, un conto è un parco all'inglese, che sembra foresta ma è un parco all'inglese. Cioè le opere, quelle che trasformano la natura in un mondo, cioè più sicuro della natura, a misura d'uomo, a misura dei bisogni dell'uomo, utilizzabile dall'uomo e così via. E infine ci sono le azioni, cioè il lavoro che è un'attività, quello dell'uomo attivo, l'homo activus, l'homo laborans, l'homo faber, il fabbro, quello che costruisce, e l'homo activus. Ora, l'homo activus in cosa consiste? Quando vai a vedere cosa intende Hannah Arendt per homo activus, cioè per azioni, lavoro come azione, vuol dire che il lavoro che tu fai è comunicativo, cioè parla agli altri, è espressivo. Significa che parla agli altri nel senso della domanda e della risposta, nel senso cioè della, precisamente, della comunicazione. Le persone, qual è l'attività più alta dell'uomo? È il comunicare. Le persone si parlano, e si parlano attraverso il lavoro. Allora, per esempio, questa è un'accezione possibile di quello, per spiegare quello che dicevamo prima. Qual è il lavoro umano? Il lavoro umano è quel lavoro che parla agli altri. Ecco perché i lavori del parlare, per esempio tu che lavori alla radio, noi che parliamo alla radio, il lavoro espressivo, io che parlo con i miei pazienti, sono lavori che hanno molto di umano. E se invece uno abbullona in vita, a vita qualcosa, è un lavoro umano, ma dopo, attraverso il prodotto, cioè in modo estremamente indiretto. Ma se quel prodotto lì è un prodotto che libera, parla all'umano in un certo modo. Se è un prodotto che opprime, parla all'umano in un altro modo. Se è un puro consumo, aria fritta o taglia brodo, come diceva Dario Fo, è un conto. Se invece è qualcosa che ti cambia la vita, è tutto un altro conto. Andiamo allora in pubblicità fra poco, Allora il problema è fondamentalmente considerare che la comunicazione, quello che dicevi tu, è fondamentale Ed è lavoro. Torniamo. Ed è lavoro importante. Adesso andiamo in pubblicità, poi, perché non mi hai convinta fino in fondo. Torniamo in diretta, siamo rimasti sulla comunicazione. Tu dicevi la comunicazione è un lavoro. È un lavoro anche quello, vedi? Non si vuol mantenere disoccupato. Ho appena comunicato col professore, a che mio si modo. Stava occupando. Non verbale. Vabbè, la comunicazione viaggia su più piani e più fronti. Però io credo che a parte chi fa come lavoro comunicazione in vari settori e mette in connessione le persone attraverso la comunicazione, se è questo il lavoro in sé in realtà, delle volte li mette anche in comunicazione con se stessi, perché la mia prima domanda era per decidere di avere un lavoro di merda, come dicevi tu, o di dover cambiare qualcosa nella propria vita, prima di tutto bisogna che questa notizia venga a coscienza, che uno ne prenda coscienza, che uno è... E molto spesso la comunicazione si ferma all'interno di sé, prima ancora di fermarsi nell'interrelazione con gli altri. Cioè una parte di sé non comunica con l'altra, guarda che per una serie di motivi che forse ci puoi dire tu. Sì, perché siamo in tanti, ognuno dentro di sé, non siamo in uno. Tutti, c'hai delle parti c'è di una te, folla. Una parte di te con cui parli e altre parti di te con cui non parli, altre con cui hai litigato e non vi parlate più. Hai perfettamente ragione, adesso però non fare lo psicologo. No, non volevo fare lo psicologo, volevo anche, no, più che altro io volevo arrivare a questo, scusami, forse non era chiaro. Tu eri partito dicendo che per la nostra società il lavoro caratterizza la nostra identità. Non è un caso che quando si conosce un estraneo o un'estranea per la prima volta, la prima cosa che ci si chiede è cosa fai nella vita. E non si intende sei felice nella vita, ti godi la vita, ma si intende cosa fai di mestiere, di lavoro, di occupazione, certo, eccetera. Certo. E quello alla persona che non ti conosce dà già un senso di chi sei e dove stai. Allora, alle volte forse diventa difficile dirsi che quel posto lì che tu occupi è sbagliato. Certo, questo volevo dire. Certo, no, ma lì cioè, come dire, il gioco fondamentalmente è il gioco che si fa a partire dall'educazione con il rapporto che c'è tra sé e gli altri. Per cui uno può anche essere convinto, perché ha avuto un certo tipo di educazione, che in fondo si lavora per sé. Che il lavoro è una cosa, tu lavori, ci sono delle dimensioni del lavoro che sono dimensioni individuali. Certo, non c'è dubbio. Tu lavori per procurarti da vivere, tu e ai tuoi, lavori per costruire cose tue, per farti la tua casa, tu lavori per farti il tuo mondo, non per costruire il mondo, no? Tu lavori anche per gli altri, anche per il mondo comune, il mondo che in cui convivi con gli altri. Però certi lavori, per esempio, sono lavori isolanti, non tutti i lavori sono socializzanti. Allora, non c'è dubbio. Allora, qui il problema è riuscire a comunicare alle persone, soprattutto a partire dall'educazione, a comunicare alle persone che il lavoro non ha solo la funzione di guadagnarsi da vivere o di costruirsi il proprio mondo, perché convivendo ogni mondo con gli altri mondi, nella loro interazione c'è la costruzione del mondo comune e tutti abbiamo una responsabilità. Per esempio, certe volte noi andiamo innocentemente in una direzione individuale, nella costruzione, andiamo tanto avanti nella costruzione del mondo nostro individuale che non ci rendiamo conto che stiamo espellendo dal mondo altri. E inevitabilmente quegli altri, appena se ne accorgono, se la prenderanno con noi, no? Ecco, per esempio, nella categoria di quelli che non lavorano, del non lavoro, c'è anche la categoria degli assediati, per esempio, no? Quelli che non lavorano, non hanno bisogno di lavorare, ma si sentono assediati dall'invidia di tutti quelli che li circondano, che vorrebbero essere come loro. Ho capito. Stiamo tornando all'invidia. Pensa un po' che giro che abbiamo fatto. Tutto torna. Con Francesco Campione tutto torna. Tornando alla comunicazione, la seconda cosa, invece, la seconda osservazione che volevo andare ad approfondire con te è: ok, chi lo fa di mestiere, o che la comunicazione è un mestiere, ma la comunicazione è anche un medium. Anche tra chi non lo fa di mestiere. Se io non parlo con la mia vicina di casa, faccio per dire un esempio, con la mia collega, sorgono dei problemi, e non è che tutte le volte può intervenire l'operatore specializzato della comunicazione. Quindi c'è anche una necessità di ripristinare o di riportare una comunicazione base tra le persone, uno scambio di informazioni, inteso in questo senso comunicazione, uno scambio di informazioni su cosa penso, cosa credo, cosa vorrei. Certo, no. Scevra da pregiudizi e aspettative, diciamo. Sì, così. No, questo secondo me è un punto, un altro punto abbastanza importante, perché nella nostra cultura si fa di tutto per pensare, per esempio, che la comunicazione sia facile. È una cultura che tende a semplificare la comunicazione. In realtà la comunicazione è l'attività umana più complicata, più difficile. Per esempio, ogni comunicazione ha il rischio del fraintendimento. Ogni comunicazione parte da qualcuno e nell'arrivare a quell'altro, al destinatario, può ricevere una quantità di influenze, di interferenze tali che chissà cosa arriva. Allora, da questo punto di vista, bisognerebbe che non fosse vero, come nella vita di oggi, che comunicare è una cosa facile. Comunicare è una cosa difficile. In questo senso dovremmo cercare tutti di essere abbastanza esperti nella comunicazione. Cioè, se c'è una cosa che fa l'uomo, è il fatto che quell'uomo sappia comunicare. Se c'è una cosa che lo imbestialisce e lo disumanizza, è il fatto che non sa comunicare. E allora, per esempio, quando devono convivere nello stesso mondo coloro che pensano che comunicare significhi semplicemente aprire la bocca e dire qualcosa, no? E quelli che invece si chiedono tutte le volte che dicono qualcosa: ma che cosa gli sto dicendo in realtà, cosa gli volevo dire, che cosa capirà, così eccetera. Quando si incontrano due così, che cosa succede? Succede che appartengono a due mondi completamente differenti, non convivono nello stesso mondo. Allora c'è un conflitto, il primo punto secondo che io osserverei, che c'è un conflitto sulla comunicazione nella nostra cultura, tra il punto di vista dominante, che tende a semplificare la comunicazione, e l'unico modo per semplificarla è rendere simile la comunicazione tra macchine. Tutto previsto e tutto programmato, tutto prevedibile, tutto, nessuna sfumatura. E l'altra possibilità è che invece la comunicazione sia assolutamente complessa, e che proprio perché tu devi avere il tempo per capirti con un altro, alla fine non lo menerai, quello non ti mena e farete la pace. Proprio perché è così complesso e non puoi mai capire fino in fondo che cosa ti voleva dire. Se invece tu semplifichi, ed è una delle situazioni, questo conflitto è la fonte di una delle crisi più diffuse della nostra epoca. Ah, non c'è dubbio. Tu c'hai un giovane, per esempio, tu prendi un giovane, anche nel conflitto generazionale, per esempio, si vede. Uh-huh. Un giovane che va al sodo e dice pane al pane, e un anziano che per andare al sodo ha bisogno di fare il giro di tutta la sua vita che deve raccontare. Sono due modalità totalmente diverse. Una delle fonti di crisi è proprio questa. Cioè, guarda come si traduce nel rapporto tra generazioni nella politica, o tra generi, per esempio, no? Anche tra generi c'è una bella differenza. Anche tra generi, perché il modo di comunicare femminile è più viscerale, più sul cuore, più sul corpo, è più quello maschile, più astratto, più idealistico, più armato, più formale, più schematico, no? Come fanno a capirsi? Cioè, tant'è vero che appunto per capirsi si devono trasformare, devono accentuare molto gli aspetti positivi dell'uno e dell'altro. cioè si capiscono quando la comunicazione al femminile tende a diventare materna e quella al maschile tende a diventare paterna, dopodiché la comunicazione è feconda, cioè fanno un figlio. Scusa, questa non me l'aspettavo. Beh, si vogliono talmente bene. Mi hai spiazzata, per cui tu dici che l'unico metodo per la comunicazione maschile e femminile è la procreazione. Ma per figlio non si intende soltanto qualcosa di biologico. Avevo capito. Si intende che ciò che è fecondo anche nella vita politica è l'incontro tra il materno e il paterno. Cioè, ecco, per esempio, sull'immigrazione. Il materno dell'accoglienza si deve coniugare col calcolo delle risorse, altrimenti se prevale l'uno se prevale l'altro non si combina niente. Se prevale l'accoglienza li accogliamo tutti e ci distruggono perché tutti noi possiamo accogliere. Se prevale il calcolo non li accogliamo nessuno e dopo un po' diventiamo dei mostri. Cioè il problema, quello che è per esempio una delle ragioni per cui non ci sono proposte, si balbetta su quello, è che non funziona la comunicazione fra l'istinto materno di proteggere tutti i bambini che arrivano e l'istinto paterno di dire non ti posso aiutare figlio mio, ti devi dare da fare perché io le risorse non ce l'ho. Che poi le risorse non ce l'avevo, bisognerebbe aprire di nuovo il capitolo di qui sopra della famosa alleanza, anche in questo caso. Certo. E forse a quel punto lì si potrebbe anche dire che ognuno può muoversi e andare dove vuole e un'accoglienza la trova sempre, perché comunque rimane cittadino del mondo. Questo è molto materno però, questo è molto, perché non è vero che un'accoglienza la trova sempre, perché tu giri per il mondo e trovi sia accoglienza sia diffidenza e porta in faccia. Ah, non c'è dubbio, ma questo anche se stai a casa tua. Certo, ma giri per il mondo, ma non può è essere detto anche che il la mondo, via di fianco a casa tua. Il mondo, ecco. Il mondo, anche il mondo della tua strada, il mondo del tuo posto di lavoro, del tuo gruppo, il mondo nel quale vivi. No, non c'è dubbio. Volete ascoltare un po' di musica? E poi andiamo in conclusione anche per oggi. Con la musica che arriva dai Delfonics. Sono morti dal caldo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Sono felicissimi. Ricordiamo i numeri? No, secondo me sono svenutissimi. Sono felicissimi. Tant'è vero che... Oddio. Stiamo parlando di lavoro, non è proprio un tema così astratto. Di lavoro, disoccupazione, no, comunicazione, non sono temi così astratti. No, quindi... no, ma secondo me è un argomento che non fa fresco. Ah, non c'è dubbio. I dati danno ragione a te, purtroppo. In generale, noi non affrontiamo non argomenti che fanno fresco. Musica. Musica. Let me try. Now I don't wear a diamond ring. I don't even know a song to sing. All I know is la la la la la la la la la. I love you. Oh, baby, please now. La la la la la la la la la. I'm sure you will see the things I say now. E allora torniamo in diretta per i saluti. Ormai tra una curiosità e l'altra, c'era chi girava nudo in via San Vitale in bicicletta, da quello che mi hanno detto. Non ero io, sarebbe stato un tandem in quel caso. Mi avreste visto su... Ho due tandem. No, poi c'hai i capelli troppo lunghi per essere... meno male, almeno non mi denunciate. Cioè, è una delle non sarebbe stato completamente nudo. Esatto. Con i capelli troppo lunghi. No, esatto. Fondamentale. No, è una chicca che ci regala Danilo Masomasotti linkando Bologna Today. Dopo lo scalzismo a Bologna prende piede la moda dei culi marronati nudi. Bello, in bici. Un signore Danilo Masotti che saluti, che finezza. Lo salutiamo, lo aspettiamo. Mozzarella. Domani alla presentazione del tuo libro, che ha detto che se riesce passa a prendere appunti. Bene, grazie già da ora. Va bene, allora comunicazione. Come la risolviamo? Facciamo dei corsi di comunicazione a tutti? Non la vedo probabile. No, no. Secondo me no, il problema è educativo. Sai che io devo andare sul concreto, eh? Sì, no, ma sul concreto è uno si rende, quando si rende conto che converrebbe dedicare un po' più di tempo alla comunicazione e non comunicare in modo, come dire, semplicistico. Quando è che si rende conto? Quando non viene capito. E quando il fatto di non essere capito gli provoca qualche problema, gli procura qualche problema. Se tu... Cioè, una delle sfighe massime dell'umanità è non essere capiti. E quando è che non sei capito? Spesso non sei capito non perché tu non hai niente da dire, perché non vali niente, così eccetera, ma perché non hai fatto nessuno sforzo per farti capire. Per esempio, la pazienza che ci vuole per fare arrivare alle persone quello che si vuole dire o si vuole far cogliere agli altri, ci vuole una grande pazienza, perché quell'altro intanto magari è impegnato nei cavoli suoi, c'ha un altro linguaggio, viene da un'altra storia, così eccetera. Però no, se non c'è pazienza, no, le persone non si parlano. Allora, da questo punto di vista, per esempio, la fretta del nostro mondo è controproducente, tant'è vero che tutti quelli che pensano di cambiarlo il mondo, la prima cosa che propongono è abbassiamo il ritmo. Cerchiamo di essere più lenti, no? La prima cosa che accadrebbe è che tu ti potresti rendere conto che quello che hai appena detto, siccome è il tempo di ascoltarlo, non ti quadra. Dice: cazzo, che gli ho detto? No, non volevo dire quello. E ti puoi correggere. E ti puoi correggere. Allora c'è una ragione per cui non si comunica o ci sono le crisi quotidiane della comunicazione. La ragione, poi ci sono tante altre ragioni ovviamente, non c'è dubbio, ci sono tante altre ragioni, però una delle ragioni è questa, che bisogna capire subito cosa si vuole dire andando dentro di sé, cosa già difficile perché ci sono tante cose contraddittorie. Per esempio, se tu hai delle cose contraddittorie, come fai a dire una cosa e il contrario di quella cosa lì? È difficilissimo da dire, no? E quell'altro poveretto come fa a capirti? Allora che fai? Biascichi qualcosa, fai un gesto, fai un'azione e pensi che gli altri ti possano capire con o l'azione. O fai una non azione anche. Oppure ti astieni, stai zitto per non, perché non sai cosa dire. Per esempio, quanta gente c'è che non partecipa alla vita collettiva, non perché non vuole, ma perché ha difficoltà, non sa cosa dire, come faccio a dirla quella cosa lì? Che è solo mia, di cui mi vergogno, oppure non so fino in fondo che, da dove deriva, che cos'è. Allora lì, per esempio, bisognerebbe apprendere che certe cose tu, cioè, come dire, che la comunicazione, comunicare, è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. È un punto di partenza per le macchine comunicare. Se una macchina non ha niente da dire, tace. No, se un uomo o una donna non hanno niente da dire, parlano, per scoprire cosa vogliono dire. Ora però tutto questo, come dire, tende a ritirarsi sullo sfondo in un'epoca in cui la comunicazione viene intesa invece come scambio di informazioni. La comunicazione non è solo uno scambio di informazioni. No, anche perché alle volte magari nel fraintendimento o nel non essere troppo chiari, però parlando con qualcuno ci si chiarisce anche personalmente, cioè... alle volte uno scambio con una seconda persona aiuta a chiarirsi quella cosa che si pensava di non riuscire a dire. Certo, tu certe volte dici, toh, proprio quello volevo dire, in base a quello che ti ha detto quell'altro. Poi secondo me è una cosa che bisognerebbe insegnare ai bambini, è a dire più spesso la verità. Il re è nudo, diventerai famoso dopo morto. Alcune verità. Diventerai famoso dopo morto, è carina, mi piace. E quindi la chiudiamo qua, perché fa dei segnali di minacce. No, faccio dei segnali di fame. Ci comunica che il tempo è finito. Andate e possiamo anche, accennare a un'altra storia, appunto quello che dicevamo. Per comunicare bene ci vuole il tempo. Prendiamoci il tempo. Per facciamola comunicare. Sulla fretta la prossima. Sulla crisi, sulle crisi che determinate da... Oh, ne ho fatta una giusta in 10 puntate. ecco, io quando fa così gli darei delle botte in testa. Bella è la musica che fa. ciao a proposito di comunicazione, io e Willy non riusciamo a comunicare. Ma non è vero. No, comunichiamo a sberle, ma subliminare. Ciao Francesco, ciao Willy, grazie. Ciao ascoltatori e ascoltatrici, ci si becca mercoledì prossimo, si sente e ci si parla mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Ciao.